Benissimo, buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la terz'ultima lezione della parte seminariale teorica di questo corso. E, stasera tocca a me presentare e aprire dei discorsi, probabilmente più che chiuderli, su quello che è di fatto l'ultimo Foucault. Ovvero, con Antonio Caronia la volta scorsa sono state affrontate tutte le questioni del biopotere. E siamo arrivati più o meno alla metà degli anni 70. È abbastanza arduo il compito di questa sera, perché sono tanti i percorsi che Foucault apre negli ultimi 8 anni della sua produzione e non sono altrettanti i percorsi che chiude, se si può parlare di chiusura di qualcosa anche nelle opere precedenti. Non abbiamo una produzione, non abbiamo un testo sistematico che esaurisca quello che andremo a dire in questo appuntamento e nel successivo. Abbiamo tanti frammenti, abbiamo una dispersione di insegnamento e di nozioni che si sviluppa veramente più che prima su 3 linee, sulle pubblicazioni vere e proprie, sulle interviste, tutto l'apparato di articoli e sui corsi tenuti al Collège de France, che assumono un peso tanto rilevante in questo periodo quanto forse già iniziando con Bisogna difendere la società, in effetti, quanto quello che troviamo nei libri che vengono pubblicati. E quindi stasera cercherò di iniziare a tracciare alcune linee riguardo il pensiero di Foucault di questo periodo. Ci saranno alcune questioni che rimarranno totalmente in evase, totalmente aperte, che troveranno la prossima settimana una risposta provvisoria. Da dove partire? Probabilmente dalla fine dell'appuntamento precedente, ovvero i 10 minuti finali della lezione della volta scorsa, in cui Antonio Caronia si soffermava sul discorso del biopotere, che rappresenta l'acquisizione e la tradizione teorica principale del Foucault della prima metà degli anni 70, con l'interrogativo sollevato da Antonio, ovvero chi gestisce il biopotere, quando siamo di fronte a una possibilità di azione direttamente sui corpi. Prima di andare a vedere questa azione o prima di entusiasmarsi di questa azione, non è importante vedere chi sta effettuando questa azione sui corpi. E quindi passerei al primo argomento che vorrei presentare questa sera, che è uno dei concetti più propri, più studiati attualmente riguardo a Michel Foucault, che è quello di dispositivo, benché sia uno di quelli all'interno della sua produzione più sfumati in assoluto. Giusto per dare una nota storica, stiamo parlando degli anni 77-78. Innanzitutto la parola dispositivo. La parola dispositivo in francese è dispositif, gli inglesi fanno fatica a tradurre questa parola perché non appartiene al vocabolario inglese, è uno dei punti critici di qualsiasi traduzione di Foucault in lingua inglese. La soluzione comune adottata è quella di apparatus, che semanticamente potrebbe rinviare a un campo simile. Il dispositivo di Foucault non è affatto il dispositivo che noi usiamo correntemente. Nel linguaggio corrente, quando parliamo di dispositivo, stiamo parlando generalmente di quello che con un anglismo attualmente definiamo come device. Infatti, se si va a guardare su Wikipedia, un po' una fonte collettiva di conoscenza per il valore che abbia, quando incrociamo la parola dispositivo troviamo anche device come possibile interpretazione, possibile traduzione, quindi tutto l'ambito informatico, tutto l'ambito degli utensili, tutto l'ambito del tool, degli strumenti che noi utilizziamo per fare qualcosa. Dispositivo in senso foucaultiano non è questo. Andando avanti sempre su ipotesi riguardo al dispositivo, mi piaceva semplicemente citare perché siamo all'interno di spettri semantici piuttosto ampi e difficili da definire, ed è una definizione che un autore italiano, Mario Costa, che lavora a Napoli, dà in un suo testo forse scomparso adesso, non più pubblicato da Castelvecchi, che è L'estetica dei media del 1990. Ne dà questa definizione: strumento, oggetto, cosa che l'utente si trova di fronte. però anche sostrato tecnologico possibile oggetto di un'investigazione oggettiva e scientifica che penetra la componente estetica. L'estetica dei media, se mai è esistita questa disciplina, ha tentato di andare a vedere proprio in questo ambito quale tipo di correlazione estetica fosse possibile trovare all'interno dell'ambito tecnologico, soprattutto in un periodo in cui l'esplosione di un'arte in cui la componente tecnologica era importante stava diventando predominante. Ma al di là di questo arriviamo al dispositivo foucaultiano. Non esiste un testo di Foucault consacrato al dispositivo. Le definizioni più esaurienti che andrò a leggere adesso si trovano in un'intervista, semplicemente in un'intervista e sul corpus di Foucault di svariate migliaia di pagine ne occupano due. È curioso tuttavia che due autori del peso di Gilles Deleuze e Giorgio Agamben abbiano intitolato due testi, uno molto breve, quello gambeniano, e uno un po' più corposo e più denso, quello deleuziano, esattamente che cos'è un dispositivo, andando a lottare e a cimentarsi con questa apertura lasciata da Foucault. Per attaccarmi alla lezione precedente ed arrivare alla definizione di dispositivo vorrei passare attraverso Deleuze, attraverso Foucault, attraverso Agamben. La prima è un elenco che vado a leggere. Quali sono le azioni del potere? Incitare, indurre, distogliere, rendere facile o difficile, ampliare o limitare, rendere più o meno probabile. Il potere non è repressivo, viene esercitato prima di essere posseduto, passa attraverso i dominati e anche attraverso i dominanti. Incitare, indurre, distogliere, rendere facile o difficile, ampliare o limitare, rendere più o meno probabile. Queste sono le azioni del potere e l'autore di questo passaggio è Gilles Deleuze. Ci stiamo avvicinando sempre più al dispositivo. Il potere è impersonale, il potere non è un soggetto agente. Chi opera questo rispetto alle persone che subiscono questo? Chi compie questa azione e chi subisce questa azione di incitare, indurre, distogliere, rendere facile o difficile? Sempre da Deleuze, una piccola apertura per arrivare a brevissimo al dispositivo. Le istituzioni, i fattori integranti, gli agenti di stratificazione formano delle istituzioni. Lo Stato, così come la famiglia, la religione, la produzione, il mercato, l'arte stessa, la morale. Le istituzioni non sono fonti o essenze e a loro volta non hanno né essenza né interiorità. Sono pratiche, sono meccanismi operativi che non possono spiegare il potere poiché ne presuppongono i rapporti e si limitano a fissarli in una funzione riproduttrice e non produttrice. Deleuze coglie qui un punto fondamentale del dispositivo che poi Foucault esplicita non in maniera così chiara. E il punto fondamentale è questo: le istituzioni come meccanismi operativi che non possono spiegare il potere perché lo presuppongono. Le istituzioni non sono il potere. Le istituzioni sono i meccanismi, sono le stratificazioni del potere e il fine delle istituzioni non è, come dice qui, produrre il potere, ma fissare e riprodurre i meccanismi di potere. Come dice Deleuze in un altro passaggio sempre di questo libro, quando troviamo un'istituzione, quando noi nel caos, diciamo, dell'esistenza, della vita, di quello che troviamo di fronte, nel caos dei rapporti di potere, possiamo anche dire, iniziamo a trovare delle linee generali, delle linee di forza generali che possono applicarsi in più casi. Quando queste linee di forza generali vanno a stratificarsi, allora abbiamo il sorgere dell'istituzione. Qua in questa breve pagina, però, in questo breve passaggio, Deleuze ci sta parlando di istituzioni. Il dispositivo, definito da Foucault come andrò a leggere adesso, è qualcosa di forse più complesso e di più problematico. Vado a leggere proprio le definizioni foucaultiane. Ciò che io cerco di individuare con questo nome di dispositivo è un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve, tanto del detto che del non detto. Ecco gli elementi del dispositivo. Quindi, primo passaggio, il dispositivo è qualcosa di eterogeneo. Eterogeneo in questo senso significa perché proprio è composto da parti tra di loro differenti, non omologabili sotto la medesima categoria, che potrebbe essere cose fisiche, potrebbe essere linguaggio, potrebbe essere comportamenti, quello che vogliamo. No, il dispositivo è fatto di tanti pezzi diversi. Implica, e qua abbiamo una tassonomia provvisoria, quasi retorica, che non ha valore scientifico, ma ci dice di che cosa è fatto un dispositivo. Discorsi, istituzioni, le istituzioni di cui parlava prima Deleuze, quelle che tramandano il potere, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche. In breve, tanto del detto quanto del non detto, cioè il dispositivo afferisce, come avrebbe detto Deleuze nel suo libro, sia a un regime di dicibilità, qualcosa che possiamo dire, o meglio, qualcosa che possiamo dire fa parte del dispositivo, ma anche a un regime di visibilità. Il dispositivo non è solamente una rete linguistica, ma è anche una rete di cose che si vedono. Come esemplificare il dispositivo a partire da questa prima definizione? Un dispositivo è qualcosa di complesso, poi cercheremo anche attraverso Gamben di capire in quale direzione andare, però come esempio assolutamente parziale e provvisorio per dire che cosa può essere un dispositivo possiamo partire da questa accademia stessa. In che senso un dispositivo è inseribile, è spiegabile, un'accademia, perdonatemi, è spiegabile in termini di dispositivo? Andando a leggere l'elenco che abbiamo trovato solo adesso, prima di tutto i discorsi. Chiaramente i discorsi, in questo caso, per tramandare un certo tipo di conoscenza che avvengono all'interno dell'accademia. E questi discorsi non sono del puro pensiero, non sono qualcosa che vola nell'aria, ma si trasformano in questo che sto dicendo adesso, in oggetti fisici come questo, in altro materiale che noi possiamo trovare, in oggetti digitali come questo, cioè hanno bisogno di un sostrato che li possa veicolare. È un'istituzione, poi, chiaramente un posto come questo è un'istituzione nel senso che è una rete di elementi che hanno in questo caso una validazione esterna che viene certificata come istituzione. È una struttura architettonica, chiaramente. Possiamo pensare un modello formativo senza struttura architettonica? Probabilmente sì, ma non è questo. Noi quando parliamo di accademia in termini di dispositivo dobbiamo pensare anche a questi spazi. Quando, se noi pensiamo a tutto il discorso foucaultiano precedente, anche quello sul sapere, anche in questi spazi si è sedimentato del sapere. Non è in una maniera caotica o in una maniera ingenua che noi ci troviamo a gestire questo ambiente in questa maniera, con un'occupazione della mia posizione in una determinata maniera, la vostra in un'altra maniera, così via. Qua c'è una concretizzazione, una visibilità di un certo tipo di sapere che è diventato questo che noi stiamo andando a vedere. E l'architettura stessa di una struttura fa parte del dispositivo. Decisioni regolative, le decisioni regolative all'interno di questa struttura la attraversano completamente, la tagliano completamente. Chiaramente andiamo da tutti gli aspetti ministeriali a quelli statali imposti dalle regole amministrative, alle regole di condotta degli studenti e così via. Le leggi, le misure amministrative, non potrebbe sussistere questo come dispositivo se al suo interno non avesse anche un apparato amministrativo che lo gestisce. E poi appunto abbiamo enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Abbiamo detto detto e non detto. E poi qual è la definizione proprio tranchant su questo? Il dispositivo non è tanto questo insieme, ma è la rete che si stabilisce fra questi elementi. Cioè, noi possiamo pensare questo insieme come un insieme eterogeneo e disomogeneo e disaggregato, però il dispositivo non è la somma di questi elementi, ma è la rete che li unisce tutti. Per cui il dispositivo è quello che connette questo affarino che da qualche ho nel portafoglio, che è il mio badge, che mi riconosce come un membro dello staff NABA, a questo tavolo, al discorso che sto pronunciando adesso, alla vostra presenza qui, al fatto che ci sono degli moduli con cui gli studenti si iscrivono ai corsi, al fatto che in Aula Magna ci sia in questo momento una conferenza, al fatto che ci sia un cartello che annuncia questa conferenza e così via. Il dispositivo noi andiamo a leggerlo su tutti questi elementi, ma non è tanto questo insieme compreso come somma di parti, ma sono tutte le linee, quali linee? Le linee di forza, le linee di sapere che tengono insieme tutti questi elementi disaggregati. E poi, terzo punto, col termine dispositivo, è un'intervista, quindi non è un discorso sistematico, è un discorso fluido. Col termine dispositivo intendo una specie di formazione che in un certo momento storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. La formazione è il concatenamento di cui parlava Deleuze prima, per analogia, cioè è qualcosa che ha una certa stabilità nel tempo, una stabilità nel tempo finalizzata a dare qualcosa. E poi qua abbiamo uno dei classici punti nodali di Foucault, che ha come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. Cioè, perché nasce un dispositivo? Questa è la domanda radicale dal punto di vista, se vogliamo, genealogico. Cos'è questa urgenza? È difficile definire che cosa sia questa urgenza. E meriterebbe un discorso a parte. Quello che possiamo dire probabilmente è che l'urgenza, da urgere in latino, è qualcosa che sta spingendo, è qualcosa che, usando un'etimologia simile, sta emergendo, è una pressione che genera inevitabilmente del caos, è una pressione che rompe un ordine e che richiede un nuovo dispositivo perché ci sia una forma, anzi una formazione nuova, perché il dispositivo ha sempre al suo interno una componente dinamica, una formazione nuova che consenta di gestire questa urgenza, che consenta di dare un ordine a questa urgenza. E poi, come continua a dire Foucault, il dispositivo ha dunque una funzione eminentemente strategica, ovvero il dispositivo, quando si parla di dispositivo, bisogna pensare a questo rapporto con l'urgenza, a questo fatto che ci sia una formazione in termini di potere. Il dispositivo risponde a una strategia. Il che implica, come spiega Foucault, che si tratti di una certa manipolazione di rapporti di forza. Quindi, quando noi siamo all'interno di un dispositivo, dobbiamo anche sapere che siamo all'interno di una serie di rapporti di forza, come dice Foucault con una scelta lessicale bella, manipolati. Cioè, non è una forza che gioca in maniera libera, non è un conflitto aperto. All'interno del dispositivo i rapporti di forza sono ordinati, trovano un ordine. Per esempio, sempre per declinare sul caso Accademia, banalmente il caso studente-discente. Non siamo in un ambito anarchico in cui, studente-docente, perdonatemi, un ambito anarchico in cui ognuno può assumere l'identità che gli compete o può interpretare la propria identità nella maniera che ritiene in quel momento, ma si disciplina il rapporto di forza in una determinata maniera. E poi, come aggiunge ancora Foucault, sia per orientarli in una certa direzione, sia per bloccarli o fissarli ed utilizzarli. E i quattro verbi sono belli. Orientarli, cioè cerchiamo di smussare attraverso il dispositivo quello che è l'esplosione della forza, che è la gestione della forza in una determinata maniera. Il fatto che noi siamo cittadini di fronte allo Stato, per esempio. Lo Stato è un dispositivo fra i più complessi probabilmente mai creati dall'umanità, e lo Stato ci inclina in una determinata direzione, ci blocca in un'altra direzione, chiaramente, attraverso un sistema di leggi che ci consentono dei diritti ma ci vincolano anche a un esercizio limitato della libertà. Fissa i rapporti di forza, cioè dice il tuo limite sotto questo aspetto finisce qua e oltre questo non puoi andare, e finché questa legge, questo meccanismo di gestione è in vigore, il range, il delta in cui io posso giocare il mio rapporto di forza è quello. E poi la parola, se vogliamo, più biopolitica di tutti, di utilizzarli, cioè il dispositivo inclina, utilizza, proprio prende i rapporti di forza e lo orienta secondo i fini per i quali è nato. E sempre andando avanti, il dispositivo è sempre iscritto in un gioco di potere e insieme sempre legato a dei limiti del sapere che derivano da esso e nella stessa misura lo condizionano. Cioè, pensare in maniera lineare con Foucault è controproducente, nel senso che fare una derivazione del sapere o del potere dal dispositivo o viceversa, mettere il dispositivo come derivato di sapere e potere, sono meccanismi causali che non portano da nessuna parte. Sono relazioni di elementi talvolta differenti che vanno sempre compresi allo stesso tempo e tenuti in relazione allo stesso tempo. Quindi sapere, potere e dispositivo sono angoli di un triangolo di relazioni coerente che permette un qualcosa, appunto, come diceva prima, di gestire la forza in una determinata maniera. Il dispositivo è appunto questo: un insieme di strategie, di rapporti di forza che condizionano certi tipi di sapere e ne sono condizionati. Rileggo questa frase perché va un po' a riassumere tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi il dispositivo come insieme di strategie, di rapporti di forza, quindi una connessione strettissima con il potere. D'altronde, quando Foucault introduce il dispositivo, arriva da un decennio di elaborazione sul potere che abbiamo visto nelle ultime lezioni, che condizionano certi tipi di sapere e allo stesso tempo ne sono condizionati. Senza apparato di sapere un posto come questo non starebbe in piedi, senza apparato di potere un posto come questo non starebbe in piedi. In sintesi, rete di relazioni che comprende sapere e potere, dialoga con sapere e potere, che ha una funzione strategica, insieme una rete che si crea da un insieme eterogeneo di elementi, elementi sia visibili che dicibili. A questo punto, una tassonomia dei dispositivi è possibile? È quantomeno difficile? O meglio, è forse un programma di lavoro, sia la tassonomia dei dispositivi che la tassonomia delle discipline, probabilmente. In un libro del 2010, Devi cambiare la tua vita, Sloterdijk ha provato a presentare una tassonomia delle discipline piuttosto interessante, che purtroppo mi sono dimenticato di portare, che non si era vista. Però la tassonomia dei dispositivi è difficile da fare. Continuare con il discorso dei dispositivi e capire che cosa sono i dispositivi, passo al testo di Agamben, che cos'è un dispositivo, tra l'altro testo dal costo ridicolo, facilmente leggibile, accessibile e molto veloce. Agamben propone un'operazione concettuale complessa, cioè di pensare che il mondo sia diviso in due grandissime categorie. Da una parte ci sono gli esseri viventi, a cui noi chiaramente apparteniamo. Tutto quello che non è essere vivente è dispositivo. Che definizione si ricava possibile da dispositivo, dato questo postulato, data questa divisione impossibile, paradossale, tra esseri viventi e dispositivi? È più interessante la definizione del postulato, in effetti. Agamben dà un elenco che è simile a quello dell'Esiano letto prima. Cos'è un dispositivo? È qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare e controllare e assicurare. Cosa? I gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. I verbi, appunto, è di nuovo non è un elenco scientifico, ma un elenco che ci dice in quale direzione si muove il dispositivo. Catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare, assicurare. Cioè qualcosa che in un certo senso guida, determina, spinge, indirizza in una maniera più o meno violenta. E cos'è l'oggetto di questo indirizzo? I gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. Fondamentalmente, qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa diciamo, qualsiasi cosa pensiamo, cioè il nostro vivere, la nostra vita, quello che alla fine noi siamo, sarebbe un effetto dei dispositivi che noi siamo andati ad incontrare nella nostra vita e che dal momento della nostra nascita ci hanno modellato. Quali sono questi dispositivi? O meglio, quali sono i macro dispositivi che forse noi andiamo ad incontrare? Ipotizzando un grado zero di assenza dei dispositivi, che è praticamente impossibile, nel mondo occidentale nemmeno al momento della nascita probabilmente esiste questo grado zero, però subito si incontra lo Stato nella sua forma dell'anagrafe, cioè l'essere vivente acquisisce subito un nome. L'essere vivente acquisisce subito un codice fiscale e quindi entra nel regime nel dispositivo amministrativo. Un essere vivente acquisisce subito un medico, quindi entra subito obbligatoriamente per la legge italiana nel dispositivo medico. Poi quali altri dispositivi incontra? La famiglia, chiaramente, perché senza il dispositivo familiare non ci sarebbe la crescita del bambino. Poi crescendo trova sempre per obbligo il dispositivo formativo, tassi di scolarità che adesso sono stati prolungati e che, se non mi sbaglio, per lo Stato italiano in questo momento sono di 13 anni, per esempio. Poi incontra l'ultima parte del dispositivo formativo, che è il dispositivo universitario. Poi incontra un altro tipo di dispositivo familiare che presumibilmente è tenuto a creare, e forse un po' prima di questo dispositivo familiare trova il dispositivo lavorativo. È soggetto al dispositivo del mercato praticamente sin dal momento in cui nasce, perché senza un mondo di oggetti acquisiti non esiste, e diventa soggetto agente rispetto al dispositivo del mercato a un certo momento nella sua vita. Però poi questi forse sono i macro dispositivi, ce ne sono altri di sicuro. Uno che ci si augura di non incontrare, che è stato uno dei più importanti studiati da Foucault comunque, per esempio, tutto il dispositivo penitenziario. Già in Sorvegliare e punire Foucault chiaramente delinea tutto il dispositivo quando va a descrivere la prigione come dispositivo sia verbale, la prigione come insieme di leggi, ma anche come dispositivo fisico. Cioè, senza questa percezione del dispositivo come apparato di cose, prego. La struttura del linguaggio può essere considerata? Questo è un punto assolutamente critico, su questo sicuramente Antonio potrebbe avere una risposta più coerente, più sensata di me. Cioè, perché allora la questione è proprio il postulato di Agamben è assolutamente paradossale. Cioè, se noi entriamo nel mondo del, con tutte le virgolette, umano, praticamente la condizione zero dell'essere vivente privo di dispositivi nella società attuale è totalmente impensabile. Il linguaggio come terzo tra dispositivo ed essere vivente è un'ipotesi di lavoro, chiaramente. Personalmente preferisco pensare al fatto che ha una costruzione temporale di tutto, per cui i livelli si sovrappongono, si tengono tra di loro, senza pensare a un mega dispositivo che governi tutti gli altri, ma tutta una rete di relazioni, e che all'interno di questa rete di relazioni ci sia anche quella cosa vasta e polisemica che chiamiamo linguaggio. Ok. Personalmente preferisco pensare così. È bella, mi piace l'elenco di Agamben, cioè se noi diciamo, se pensiamo che il dispositivo sia qualcosa che cattura, orienta, determina, intercetta, modella e controlla qualcosa, il linguaggio c'è qui dentro, punto e basta. Ma qui dentro poi abbiamo anche questo oggetto, perché questo oggetto ha comunque il potere di determinare dei gesti, di determinare dei comportamenti, anzi forse fin troppo. Posso argomentare rapidissimamente con certo. Tutto argomentato da... No, senza parola lunga. Pigliamo sul serio Agamben, sì. Che non dice dividiamo il mondo in uomini, dice in viventi. In viventi. Quindi, da un lato ci mette l'uomo e tutta la vita animale e pure vegetale, se non penso che Agamben scriva le cose a caso. Quindi se detto no. Viventi vuol dire... Dall'altro abbiamo tutto ciò che non è vivente, e in tutto ciò che non è vivente ci sono evidentemente i prodotti di alcuni particolari esseri viventi a cui. È chiaro che tutti gli esempi che ha fatto Amos, tutta la logica del discorso che contiamo sul dispositivo, il dispositivo è una delle caratteristiche salienti della società. Di qualunque società di esseri viventi, umani o animali. Quindi ci sono obiettivi anche tra gli animali, anche nel branco dei lupi, anche nel comportamento del granchio paguro che invece vive da solo, ma solo perché è una sorta di società formata da un solo. Il linguaggio è una delle cose che stanno al limite, alla frontiera, è un cardine di questa cosa, perché è sicuramente lo strumento o l'attività più fondamentale degli esseri umani o che li caratterizza ed è quella che ha maggiori effetti anche sociali, ma ha una inequivocabile radice biologica molto più di qualsiasi altra cosa facciano gli esseri umani. Allora, se dall'insieme delle cose che ti ha detto Ramos, che mi pare, insomma, finora, che mi pare abbastanza, diciamo, sensato, riserviamo il termine dispositivo a quelle articolazioni delle diciamo, relazioni umane che sono fortemente connotate da diciamo, socialità, io sarei per a occhio sarei per lasciarlo fuori invece con il linguaggio, proprio perché ha questo genere di cose. Sì, d'altronde è uno dei problemi più complessi di tutti. In effetti, quando decliniamo come esseri viventi, c'è sempre quella specificità della tradizione occidentale sulla vita intesa in senso biologico e la vita invece che comprende una componente sociale, ed è quella dicotomia da cui veramente è difficile uscire. Cioè è una definizione doppia che genera appunto tutta una serie di riflessioni che sono assolutamente peraltro ancora da fare. E sempre continuando con Agamben, alla radice di ogni dispositivo sta dunque un fin troppo umano desiderio di felicità, e la cattura, la soggettivazione di questo desiderio in una sfera separata costituisce la potenza specifica del dispositivo. Questo è un passaggio retorico, chiaro, ma è un passaggio retorico molto interessante, perché da un lato si pone un termine che poi difficilmente incontreremo successivamente, che è quello di felicità, che qui appare quasi ex abrupto. Però cos'è la potenza del dispositivo? Qua Agamben sembra stia dicendo qualcosa, che un dispositivo tanto è più potente, cioè quanto ha più potere di essere, di funzionare, di esistere, di vivere, quanto più riesce a catturare e soggettivare il desiderio di felicità al di fuori dell'essere umano. Cioè, tanto più un dispositivo è in grado di renderci felici, tanto più sarà in grado di operare, di sopravvivere, di operare su di noi dei processi di soggettivazione. Perché il processo di soggettivazione da che cosa passerebbe? Passerebbe proprio dalla nostra relazione con i dispositivi. Oggi inizierò in parte ad arrivarci a questo tema, che è il tema più importante di questi due ultimi appuntamenti con me. Però il punto fondamentale è probabilmente questo. In questa parentesi sul dispositivo veramente non andrà esaurito questo punto. Però, come si dice in un altro passaggio, cos'è il soggetto? È ciò che risulta dalla relazione tra esseri viventi e dispositivi. Definizione assolutamente provvisoria, però definizione che colpisce perché ci sta dicendo in questo mondo di componenti biologiche e di costruzioni noi siamo l'incontro fra questi due elementi. L'incontro tra l'altro con una dimensione processuale pressoché inesauribile, perché il dispositivo non è un dispositivo cristallizzato e perché nella nostra crescita i dispositivi che andiamo ad incontrare non si fermano mai, sono sempre numerosi. Noi non possiamo vivere in un mondo da questo punto di vista fermo. Per chiudere questa parentesi sul dispositivo, perché il dispositivo rimarrà sempre come tema di queste ultime ore, vorrei tornare su Deleuze. Prima abbiamo parlato di potenza del dispositivo brevemente da Agamben. Deleuze la pone in un'altra maniera. La novità di un dispositivo rispetto a quelli precedenti è la sua attualità. L'attuale non è ciò che siamo, ma ciò che diveniamo, il nostro divenir altro. Ciò che qui è l'attuale è ciò che Nietzsche chiamava l'inattuale, il divenire che si biforca con la storia. Non predire, ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta. Ovvero, quando un dispositivo è nuovo? Un dispositivo è nuovo quando è attuale, ci dice Deleuze. E cos'è attuale secondo Deleuze? Non è ciò che siamo adesso, ma è quella linea di divenire l'altro che diventeremo a partire da questo momento attuale. E quindi un dispositivo è nuovo nel momento in cui è in grado di operare questo divenire su di noi verso qualcosa d'altro. E appunto, ciò che qui è attuale è quello che Nietzsche chiamava l'inattuale, cioè qualcosa che in questo momento non è consolidato, stratificato, quello che Nietzsche chiama in un altro passaggio celebre della Gaia Scienza il conosciuto, quello che ci è così consueto da essere divenuto totalmente banale e totalmente invisibile ai nostri occhi, che sono i dispositivi che ci governano quotidianamente, cioè la nostra vita quotidiana è assolutamente banale, assolutamente comune, assolutamente non problematizzata, è assolutamente accettata in maniera critica. L'ora a cui ci si sveglia, il rito mattutino, il prendere dei mezzi, il recarsi in un posto, avere determinati orari di pranzo, tutto questo è qualcosa che si vive senza un'interrogazione sul fatto che venga vissuto. È lo spettro del conosciuto di cui parla Nietzsche. Il dispositivo nuovo non è questo, questo è il dispositivo vecchio, il dispositivo conservatore, il dispositivo che fa rimanere e che conserva, che gestisce i nostri corpi sempre nella stessa maniera. Lo sconosciuto che bussa alla porta, di cui parla Deleuze, è quello che fa evolvere queste situazioni. Perché? E vorrei chiudere questa prima parte con un'altra citazione deleuziana. La vita, e la vita sarà molto importante nelle prossime tre ore, deve essere liberata nell'uomo stesso perché l'uomo è stato un modo per imprigionarla. Il discorso deleuziano alla fine sul dispositivo va in questa direzione. Il dispositivo in sé non è eliminabile, inteso nella maniera in cui l'abbiamo formulato oggi. Quello che interessa è l'evoluzione del dispositivo e nel riuscire a leggere il dispositivo e nel fatto che il dispositivo non sia totalmente trasparente, cioè nel fatto che riusciamo a dare opacità al dispositivo per vederlo. Se noi rimaniamo in un regime consolidato di dispositivi, non c'è questa possibilità di divenire di cui parla Deleuze. Però nell'ultima citazione che ho fatto, la vita deve essere liberata nell'uomo stesso, perché l'uomo è stato un modo di imprigionarla, c'è un tono negativo che rispetto all'analisi neutra di cui ho appena parlato non c'è. Questa prigionia della vita dell'uomo, che l'uomo stesso si è autoimposto, è uno dei temi importanti di cui parla Foucault negli ultimi anni. Sarà è l'obiettivo di quello che andiamo a vedere d'ora in poi. Cos'è questa specie di prigione di cui parla Deleuze, che Foucault non descrive come prigione, ma che è comunque interessante andare ad analizzare? Innanzitutto stiamo parlando, per fare una brevissima nota storiografica, di Foucault dal 1976 al 1984, anno in cui muore improvvisamente. Insegna al Collège de France, ci sono ancora due corsi peraltro non pubblicati dall'editore francese, consultabili solamente nella versione audio presso alcuni archivi in Normandia, quindi non conosciamo ancora noi pubblico italiano, nel pubblico inglese, nel pubblico francese, tutta la produzione di Foucault di questo periodo. C'erano in programma delle pubblicazioni che dovevano articolarsi in una prima maniera, in una certa maniera. La storia della sessualità, come Foucault la delinea all'interno della volontà di sapere, pubblicazioni che poi, alla luce delle ricerche che intraprende, iniziano a cambiare e si rivoluzionano completamente, per cui esce un testo nel 76, la volontà di sapere, dovrebbero uscire altri testi successivamente, e invece troviamo gli ultimi due libri editi da Foucault, l'uso dei piaceri e la cura di sé, solamente nell'anno della sua morte, nel 1984. Quindi un periodo molto magmatico in cui a Foucault sembrano quasi esplodere tra le mani tante linee di ricerca. È un mondo, non dico un mondo nuovo, perché c'è una continuità radicale rispetto al pensiero precedente, ma una messe di produzione che fa fatica quasi a trovare una concretizzazione nelle tre linee di cui avevo parlato prima, libri, corsi e altro genere di pubblicazioni. Per arrivare a questo punto vorrei utilizzare un passaggio dal saggio di Rovatti presente all'interno di questo testo che è Foucault oggi. Innanzitutto, il tema di cui andremo a parlare nella prossima ora è la cura di sé e cercheremo di capire quanto e perché è così importante questo tema della cura di sé. Le prime volte che mi approcciavo a Foucault era strano, perché cura di sé è una parola abbastanza estranea rispetto a un vocabolario filosofico tradizionale, e questo autore che si occupava di una cosa che in francese tra l'altro suona sur si de soi, un qualcosa di anche strano da dire, mi sembrava del tutto eterodosso e anche poco interessante all'inizio. Poi, approfondendo il discorso, si va a capire che l'operazione culturale di Foucault fatta in quegli anni è un'operazione assolutamente radicale rispetto alla contemporaneità. Dunque, vado a leggere da Rovatti. Ma c'è un secondo equivoco da sfatare, su questo vado avanti, è associato al discorso di prima, specificatamente connesso con il lavoro che Foucault conduce negli ultimi anni sulle tecniche del sé, sulla cura di sé e degli altri, e quindi sul governo di sé e degli altri. I temi di quel periodo, spostando decisamente la propria attenzione verso il mondo antico della classicità greca, verso ciò che accade nella società greco-ellenistica. Quello è il terreno di ricerca foucaultiano di quel periodo. L'equivoco riguarda l'insistenza di Foucault sulle pratiche della spiritualità antica, pratiche che va a indagare a partire dalla confessione cristiana. È indubbio che in Foucault si verifichi qualcosa come un detour all'interno del suo progetto di una storia della sessualità, quello che aveva impostato alla metà degli anni 70, uno spostamento non irrilevante della ricerca impostata e teorizzata nella volontà di sapere, il testo del 1976 che annunciava quell'ambito di ricerca. In tale ricerca, peraltro mai abbandonata, si apre un'altra strada che ha a che fare proprio con la questione del soggetto e che travalica per importanza, per interesse, l'originaria problematizzazione. Non si tratta più di indagare la genealogia della psicoanalisi attraverso un lavoro genealogico sulla confessione cristiana. Era quello il progetto foucaultiano delineato all'inizio della seconda metà degli anni 70, almeno non principalmente. Né basta prendere atto che Foucault sposta indietro la sua indagine aprendo un'ulteriore genealogia che lo conduce alla grecità antica e al mondo greco-romano, perché qui avviene piuttosto un'estensione dello sguardo e la spiritualità greco-romana assume la dimensione di una problematica a sé stante. Cioè Foucault delinea un determinato percorso che passa dalla Grecia e da Roma e trova un tema esplosivo per cui ritarda completamente l'avanzamento di questo percorso. Foucault da questo momento non cesserà di contrapporla alla spiritualità cristiana e affermerà esplicitamente il suo radicamento in essa anche come messaggio da rivolgere ai contemporanei, dando perfino l'impressione di erigerla talora a modello. Cioè Foucault trova un tema tra le mani, quello della spiritualità greca e romana, che va ad assorbire completamente la sua riflessione di quel periodo. La cura di sé è strettamente connessa a questa parola spiritualità che poi andiamo a vedere. Come dice benissimo Rovatti, e quindi uso questo passaggio come cappello introduttivo, l'equivoco a vedere bene è già contenuto nella parola stessa spiritualità, che Foucault legge come complesso di pratiche di vita, e mai come qualcosa di spirituale nel senso comune del termine, carico, come ben sappiamo, di tutta la metafisica veicolata dalla nostra storia culturale. Cioè non stiamo parlando dello spiritus cristiano, che è una precisa isola di significato, ok? Non stiamo parlando dello spiritus nel senso che viene declinato nello spiritus più spiritus di tutti, cioè lo Spirito Santo, una delle figure trinitaria. Stiamo parlando di una spiritualità completamente diversa, che poi andiamo a leggere come si definisce. Alla stessa stregua, il termine ascesi, ricalcato sulla parola greca, significa per lui essenzialmente esercizio. Ascesi noi la conosciamo secondo una tradizione che deriva dai padri della Chiesa, fondamentalmente. L'ascesis greca, di cui parla Foucault ripetutamente tantissimo in queste pagine, non ha niente a che fare con quel tipo di ascesi, come una sorta di percorso verticale che conduca verso qualcosa di ultraterreno. No, l'ascesi è un esercizio, l'ascesi è una modalità di gestione del corpo, nel senso in cui ne parleremo d'ora in poi. Ma tale equivoco esplode, quello sulla spiritualità, quando Foucault precisa che sta parlando di etica e di estetica dell'esistenza. E ci arriva attraverso i greci, poi vedremo come. E con ciò dà adito, nell'interpreto, semplicemente nel lettore, all'idea che sta avanzando una vera e propria teoria del soggetto, riportata alla luce con un poderoso vinculo storico e presa come una specie di soluzione positiva da opporre alla scomparsa attuale di un luogo soggettivo in cui attestarsi. Tutta questa spiritualità sostanzialista non ci riporta indietro un soggetto, come dice qui benissimo Rovatti. È invece ben visibile che Foucault sta lavorando a una genealogia della desoggettivazione. Cioè, in questi anni la sua impresa culturale è questa, la genealogia della desoggettivazione. Continua infatti a parlare di un soggetto da svuotare, da liberare da se stesso, cioè dalla moderna cattura nella gabbia dell'individualità. Ecco dove Deleuze, che nonostante sia un violentatore di filosofi e anche un lettore finissimo di filosofi, trova e intuisce quello che voleva Foucault. Di nuovo ritroviamo la gabbia, ritroviamo la prigionia dell'individualità contemporanea. Cioè Foucault negli ultimi 8 anni parla e scrive tanto dei greci perché trova nei greci una chiave di non lettura. Lui usa una parola un po' più sofisticata, di decifrazione di un percorso culturale che ha portato alla costruzione di una gabbia, che è la gabbia dell'individualità contemporanea, e trova nell'oblio dei greci, non l'oblio heideggeriano per l'amor di Dio, ma dell'oblio, un altro oblio, di qualcosa che apparteneva ai greci, la perdita di una possibilità di liberazione. Oggi non riuscirò ad arrivare a verità e libertà, che saranno i temi fondamentali della prossima volta, però attraverso la cura di sé si metteranno i punti fondamentali per arrivare lì. E quindi un soggetto da svuotare, da liberare da se stesso, dalla moderna cattura nella gabbia dell'individualità. E se c'è un messaggio che rivolge ai contemporanei, si tratta dell'invito a una lotta contro il nuovo soggetto individuo nel quale veniamo identificati dal dispositivo biopolitico della società attuale. E questa è l'operazione culturale di cui stiamo parlando e la maniera in cui bisogna andare a leggere la parte sulla cura di sé. Foucault, testi alla mano, non rivela alcun cedimento sulla sua interrotta decostruzione del soggetto. Solo chi non aveva voluto accorgersi che la questione del soggetto non era mai stata cancellata da Foucault, poiché l'aveva sempre elaborata in absenza, quando poi questa questione diventa il fuoco esplicito dell'indagine, può derivare in una simile bancarotta che sarebbe l'annientamento di un'intera strategia di pensiero. E finisco con Rovatti. Cura di sé biopolitica sono allora le facce non contrapposte di una medesima ricerca, la cui complessità non è a oggi ancora stata attraversata appieno da chi intende raccoglierne gli effetti. Questa è la premessa e il cappello. Adesso però parliamo della cura di sé, cioè cos'è questo concetto che fa scardinare a, cioè con cui Foucault vuole andare, lavorandolo in una maniera potente, a scardinare la gabbia dell'individualità contemporanea. Qua riprendo, uso i materiali proprio presenti all'interno della dispensa e parto con alcune brevi citazioni dalla lezione del 6 gennaio 1982. Cura di sé in greco è epimeleia e autou, che traduce questa parola. Significa la cura di se stessi, indica il fatto di occuparsi di se stessi, di preoccuparsi per se stessi e così via. Cioè la cura di sé è esattamente quello che vuole dire, indica il fatto di occuparsi di se stessi. E qua buttala già un accenno, che poi è il titolo di questa lezione. Epimeleia autou è anche una formula facile da ricordare, perché questo paradigma dell'esistenza greco che i greci possedevano così completamente ce lo siamo dimenticato e invece ci ricordiamo tra le sentenze greche l'altra sentenza fondamentale, lo gnosis auton, il conosci te stesso. Questa è la domanda che attraversa tutto questo corso di Foucault dedicato proprio all'ermeneutica del soggetto. Perché ha vinto il conosci se stesso sul cura, prenditi cura di te stesso? In Grecia coesistevano, erano presenti entrambi, e anzi con la solita messe incredibile di citazioni, di studio, di ritrovamento di materiali minori, va a documentare Foucault in questo testo di 600 pagine quanto per i greci fosse importante la cura di se stessi. Alcune maniere in cui veniva declinata la cura di se stessi in greco: occuparsi di se stessi, prendersi cura di sé, ritirarsi in se stessi, trovare riparo in se stessi, ricavare il proprio piacere in se stessi, cercare la voluttà solo in se stessi, restare in compagnia di se stessi, essere amici di se stessi, stare in se stessi come in una fortezza, curare se stessi, riservare un culto a se stessi, rispettare se stessi e così via. Tutte formulazioni greche. Allora, i problemi, continuando con questa lezione, che escono da questa cura di sé. Da un lato, una sorta di sfida e di bravata, una volontà di rottura etica, una specie di dandismo morale, come l'affermazione e la sfida a un tempo di uno stadio estetico e individuale non superabile. Dall'altro, ripiegamento sull'individuo, incapace di continuare ad attribuire consistenza per se stesso a una morale collettiva. Quando sentiamo questo elenco, sta dicendo Foucault, le prime cose che vengono alla mente. una situazione di egoismo, di egotismo, di dandismo, una lettura della cura di sé influenzata probabilmente da secoli di tradizione che ce la fanno sentire in una maniera differente. Un altro paradosso di cui parla Foucault, per cui ci viene difficile leggere la cura di se stessi. Di cura di se stessi parla anche il primo cristianesimo, abbondantemente, e lo documenta all'interno di questo testo. Di cura di se stessi parlano le filosofie, come dice lui, più austere, come lo stoicismo, come il cinismo, che hanno la cura di sé come principio, ma e che da cui potremmo anche dire il cristianesimo ruba certi pezzi relativi alla condotta morale. Come dice qua, tali regole austere, che ritroveremo identiche nella loro struttura di codice, noi le abbiamo in effetti riadattate, trasposte, trasferite entro un contesto che è quello di un'etica generale del non egoismo. Ecco perché ci suona tutto così male il discorso sulla cura di sé. Sia nella forma cristiana dell'obbligo di rinunciare a sé, sia nella forma moderna di un obbligo nei confronti degli altri, che potrà poi essere l'altro, la collettività, la classe, la patria e così via. Cioè sia nella forma cristiana dell'individuo che trova la propria salvezza nella rinuncia, sia nella forma, diciamo, diversa, politica, di tante politiche, dell'individuo che annulla se stesso nella collettività, nello Stato, nella patria e così via. Si tratta comunque di temi, di codici di rigore morale che il cristianesimo e il mondo moderno hanno fondato su una morale del non egoismo, ma che erano tuttavia nati all'interno di un paesaggio profondamente contraddistinto dall'obbligo di occuparsi se stessi. E poi l'altro punto fondamentale, problematico, quello che chiama momento cartesiano. Tale momento cartesiano, locuzione che impiego con tutte le cautele del caso, mi sembra abbia funzionato in due maniere. Da un lato, riqualificando filosoficamente l'opnosis auton, e dall'altro, al contrario, squalificando l'epimeleia e autun. Cioè, ci troviamo in un mondo instabile, cioè di una massima, il prenditi cura di te stesso, che abbiamo perso storicamente, ma che pur tuttavia rimane in quello che dovrebbe fondare la nostra identità e che si è andata perdendo nel tempo. L'emergere di un'altra massima, quello dello gnosis auton e cartesio come momento fondamentale. Perché? Il momento cartesiano ha riqualificato lo gnosis auton, il conosci te stesso. A questo riguardo le cose sono estremamente semplici. Il procedimento cartesiano, quello che possiamo leggere in tutta la chiarezza nelle meditazioni, ha posto all'origine, nel punto di partenza del procedimento filosofico, l'evidenza. L'evidenza così come essa appare, vale a dire così come essa si dà, così come si offre effettivamente alla coscienza senza che sia possibile alcun dubbio. E quindi, il procedimento cartesiano si riferisce dunque alla conoscenza di sé, almeno come forma di coscienza basata sull'autoevidenza. Inoltre, collocando l'evidenza dell'esistenza propria del soggetto al principio stesso dell'accesso all'essere, è ora proprio la conoscenza di se stessi, non più stavolta nella forma della prova dell'evidenza, ma nella forma dell'indubitabilità della mia esistenza in quanto soggetto, a fare del conosci te stesso uno degli accessi fondamentali alla verità. Ecco dov'è lo snodo fondamentale. Quando il conosci te stesso incrocia, attraverso il metodo delineato di Cartesio, la questione della posizione ontologica del soggetto, noi abbiamo un prevalere dell'ambito conoscitivo che va ad esaurire la fondazione del soggetto occidentale. E per il fatto che questo funzionava, gli ultimi 4 secoli di età moderna ci hanno consegnato questa concezione, la concezione di un soggetto da intendersi come soggetto puro di conoscenza. E qua, nel passaggio successivo, però, introduce la parola di cui parlava Rovatti prima, la spiritualità. Cos'è questa spiritualità? è qualcosa di diverso rispetto a quello di cui parlavamo prima, di cui parlava Cartesio. La spiritualità postula la necessità che il soggetto si modifichi, si trasformi, cambi posizione, divenga cioè in una certa misura, fino a un certo punto, altro da sé per avere diritto di accedere alla verità. Oggi, ripeto, non tenterò nessun apparato definitorio di verità tranne un brevissimo accenno, però la prima posizione sulla spiritualità di intesa come paradigma di Firenze è questa. Perché ci sia spiritualità è necessario che il soggetto non sia così concretizzato, ma che il soggetto possa avere la possibilità di modificare se stesso. E chiaramente, corollario, per avere la possibilità di modificare se stesso bisogna avere consapevolezza del processo di modifica. Cos'è la spiritualità? Si tratta del movimento di ascensione del soggetto stesso, che è anche il movimento per mezzo del quale, per converso, la verità giunge fino a lui e lo illumina. Abbiamo la spiritualità come porta di accesso alla verità, una verità che per ora lasciamo sfumata, ma sarà una verità, e qua è già utile precisarlo, che non ha ormai più nulla assolutamente a che fare con l'aspetto cartesiano, cioè la verità non è più una verità di conoscenza, ma è una verità, non lo dice Foucault, che però riguarda il mondo della vita, e vedremo in che senso va a riguardare il mondo della vita. Qua vi chiedo sempre di seguire il doppio binario, cioè da un lato c'è l'analisi storica del fatto che stiamo parlando di greci, dall'altro c'è la riflessione sul presente di questa analisi storica. La spiritualità, infine, postula che l'accesso alla verità produce degli effetti che per un verso sono ovviamente la conseguenza del processo spirituale messo in atto per raggiungerla. Si tratta di quelli che chiamerei gli effetti di ritorno della verità sul soggetto. E qua sta introducendo un altro elemento. Siamo ancora all'inizio di questo lunghissimo libro, però sta già mettendo tutti sul piatto tutti gli elementi di cui andrò a parlare. Ripeto, gli effetti di ritorno della verità sul soggetto. Quali sono questi effetti di ritorno? Per la spiritualità, la verità non è semplicemente quel che è stato concesso al soggetto per ricompensarlo, in qualche modo dell'atto di conoscenza per portare a compimento tale atto. Cioè la verità non è quel qualcosa che prendiamo alla fine di un processo conoscitivo per cui benissimo, siamo arrivati a quello, abbiamo posseduto la verità. La verità, e questa è una delle definizioni, qua siamo ancora all'inizio dell'82, però è una delle definizioni più importanti, è quel che illumina il soggetto, quel che gli concede la beatitudine, quel che gli consente di ottenere la tranquillità dell'anima. Qua la tranquillità di Foucault è difficile, nel senso che in questo corso dell'82 arriva una posizione che poi non rivedrà, ma problematizzerà tantissimo nei due anni successivi. Non c'è una pace del soggetto con se stesso, non vorrei che qui le parole possano essere fuorvianti, non c'è una beatitudine né tantomeno una grazia da raggiungere, non c'è questo vocabolario. Cosa c'è come possibilità? Vedremo la prossima volta le possibilità più radicali, le possibilità più forti, quelle che mettono più in crisi la tranquillità. Però c'è una possibilità. Questa possibilità viene chiamata, qui in questa zona, intensità della vita. Questa possibilità che il soggetto, tramite la spiritualità, tramite questi processi di trasformazione, può offrire a se stesso, è l'intensità. Intensità è anche una parola che appartiene al vocabolario deleuziano, chiaramente. Cos'è l'intensità? È probabilmente il vivere più a fondo qualcosa. La prima volta che avevo letto questo libro mi era venuta in mente una citazione abbastanza celebre di Ennio Flaviano: giorni memorabili di una vita sono 4 o 5, gli altri fanno volume. Non è proprio esattamente questo tipo di intensità, però così banalizzata, però l'intensità della vita è, ritornando due parole citate prima, è il non lasciarsi trascinare dal comune, il non lasciarsi trascinare dal conosciuto. L'intensità della vita è quello per cui il movimento del divenire di cui parlava Deleuze, il riuscire a entrare nell'altro da sé, diventi una pratica costante di vita. È questo uno dei punti fondamentali del rapporto con sé, di questa spiritualità di cui Foucault, parlando del passato, parlando del presente, su cui tornerà in continuazione. Vedremo la prossima volta come vi tornerà in maniera assolutamente radicale, usando la parola sradicarsi da se stessi, non ne parleremo oggi. Però questo è già uno dei punti fondamentali di oggi. Per arrivare a una prima definizione di cura di sé. La cura di sé designa per l'appunto proprio l'insieme delle condizioni di spiritualità, l'insieme delle trasformazioni di sé, che rappresentano la condizione necessaria perché si possa avere accesso alla verità. Insomma, durante tutta l'antichità, il tema della filosofia, come avere accesso alla verità, e il problema della spiritualità, quali sono nell'essere stesso del soggetto le trasformazioni necessarie per rendere possibile l'accesso alla verità, non sono mai stati disgiunti. Cioè, fondamentalmente, detto in altre parole, il sistema conoscitivo delle teorie e il sistema delle pratiche erano unite. Noi arriviamo da una tradizione per cui abbiamo confinato la verità in un angolo, confinando la verità in un angolo abbiamo pensato che per andare in quella direzione dovessimo costituirci noi stessi in un'unica direzione. Foucault sta dicendo, attenzione, in Grecia non era così. La maniera di vivere se stessi, di prendersi cura di sé, dell'uomo greco, era una maniera differente. L'accesso alla verità, ripeto, non è puro atto conoscitivo, ma è il risultato di una serie di trasformazioni che l'individuo opera su se stesso. Nei due anni successivi queste trasformazioni verranno chiamate libertà. Per chiudere questa parte, la conoscenza si limiterà a dischiudersi sulla dimensione indefinita di un progresso, qua stiamo parlando di nuovo di Cartesio, del quale non si conosce il termine, sembra quasi l'asintoto popperiano, quella verità a cui ci avviciniamo, dobbiamo spingerci lì perché c'è, del quale non si conosce il termine e il cui beneficio sarà ripagato nel corso della storia solamente dall'accumulazione organizzata delle conoscenze o dei vantaggi psicologici o sociali insiti nel fatto di aver trovato dopo tutto qualche verità dopo essersi data tanta pena per riuscire a trovarla. Abbastanza cattivo questo passaggio. Per come ormai essa appare, la verità non è più capace di salvare il soggetto. Non è la salvezza cristiana, chiaramente, è la salvezza di se stessi. Se definiamo la spiritualità come la forma che possiedono quelle pratiche, le quali postulano che il soggetto, così come esso è, non è capace di verità, ma che la verità, come in quanto tale, è capace di trasfigurare e salvare il soggetto, potremmo allora dire che, e qua è la bellissima conclusione di quest'ora, l'età moderna dei rapporti tra soggetto e verità è iniziata il giorno in cui abbiamo stabilito come postulato che, così come esso è, il soggetto è capace di verità e che la verità, così com'è, non è capace di salvare il soggetto. Cioè, l'età moderna nasce nel momento in cui mettiamo la verità lì, la prendiamo a pezzettini, ma questo gesto conoscitivo è la gabbia, l'inizio della gabbia in cui ci siamo andati a chiudere. Perché? Perché ci siamo dimenticati tutto il resto della vita e ci siamo dimenticati tutto il resto di quella salvezza della vita. Cioè Foucault sta dicendo, la conoscenza non ci salva rispetto a noi stessi. Il piano greco di esistenza era un piano differente, che comprendeva altri elementi e in cui la salvezza di noi stessi era un qualcosa di differente. Come si chiama questo? C'è all'interno di questo libro, per chi lo avesse, Foucault oggi, c'è il saggio di Davidson che torna più volte su questo tema. Si chiama saggezza. È quella sofia che compone la parola filosofia, secondo l'interpretazione di Davidson, il cui senso i greci avevano perfettamente presente, cioè il fatto che noi ci prendiamo cura di noi stessi in una maniera che poi la nostra tradizione occidentale ci ha fatto completamente perdere. La sofia è una cosa diversa, è forse la wisdom, è la saggezza. La saggezza, qua Davidson dice, bisogna riabilitare completamente i paradigmi basati sulla saggezza rispetto a quelli basati sulla conoscenza, perché i paradigmi basati sulla conoscenza sono quelli che ci hanno portato in una determinata direzione, ci hanno fatto dimenticare totalmente tutto il resto. La saggezza è una maniera di vivere noi stessi diversa, non è qualcosa che appartiene a strane filosofie, a strane pratiche. La saggezza come elemento che potrebbe rientrare nella nostra vita. E nella lezione del 17 marzo, per andare avanti con questo discorso, Foucault dice: ritengo che la techne tu biu, l'arte della vita, tradotto letteralmente, si scrive all'interno della cultura greca classica nel vuoto lasciato tanto dalla città e dalla legge quanto dalla religione relativamente all'organizzazione della vita. Cos'è questa arte della vita? Arte dell'esistenza, forse sono sinonimi, forse no, di cui parlerà tanto Foucault negli ultimi 2 anni della sua vita. Beh, una delle sentenze più famose di questo periodo è: l'arte di vivere è uccidere la psicologia. Lo disse Foucault in un'intervista ed è abbastanza significativo. Però qua la troviamo in un paradigma differente. Si scrive all'interno della vita, della cultura greca, nel vuoto lasciato da che cosa? Dalla città, dalla legge, dalla religione. Quindi escludiamo questi dispositivi, chiamiamoli pure con questa maniera, che cosa rimane? Rimane l'arte dell'esistenza, l'arte della vita, l'arte di prendersi cura di noi stessi in una determinata maniera. In questo caso, l'arte dell'esistenza e la cura di sé non sono strettamente sinonimi. Foucault però dice, in un passaggio abbastanza importante, la cura di sé è la maniera greca dell'arte di vivere. Cioè i greci mettono sotto la cura di sé questo vuoto che è l'arte di vivere. E qua poi ci sono delle domande assolutamente pertinenti. Mi sembra che ormai la cura di sé non solo attraversi, governi e sostenga da un capo all'altro tutta l'arte di vivere. Per saper esistere non occorre semplicemente sapersi curare di sé, ma che sia la techne to be, la tecnica di vita, iscriversi per intero nel quadro ormai reso autonomo della cura di sé. Cosa scaturisce allora dall'idea secondo cui la vita dovrà essere considerata come una prova? Qual è il senso e l'obiettivo della vita e di una vita tutta quanta considerata come prova, con il suo valore formatore discriminante? Quello precisamente di formare il sé. La risposta che dà Foucault a tutta una serie di interrogativi all'obiettivo di un determinato tipo di approccio greco alla vita è questo: la formazione del sé. Cos'è questa formazione del sé? È la capacità di gestire un certo rapporto di sé con se stessi, un rapporto che rappresenta il coronamento, il compimento e la ricompensa di una vita vissuta come prova. Si deve vivere per fare in modo di avere con sé il miglior rapporto possibile. In una parola, al limite, direi che si vive per sé. Quindi, una prima risposta parziale all'accusa di egoismo. Non stiamo parlando di dandismo, non stiamo parlando di un rifugio arbitrario nell'individualità. Stiamo dicendo che la cura di sé è la maniera con cui noi andiamo a formare noi stessi. Come precisa poi Foucault però alla possibile obiezione che questa sia effettivamente una forma di egoismo radicale? Lo precisa testi alla mano, lo precisa andando a dimostrare che nel mondo greco la concezione dell'individualità, nel senso in cui è presente all'interno di questa obiezione che gli viene mossa, è una concezione che non esiste. La cura di sé, il prendersi cura di sé, è anche inevitabilmente gestire delle relazioni con gli altri. Cioè, nel mondo greco, il lato della vita come bios, il lato sociale della vita, è assolutamente imprescindibile da tutto questo discorso sul sé che stiamo facendo in questo momento. Il prendersi cura di sé, quindi, non vuol dire prendersi cura degli altri in senso filantropico, in senso di rinunciare a se stessi per gli altri. Significa occuparsi di se stessi, essendo perfettamente consapevoli che se stessi è la rete di relazioni, questo non è un vocabolario greco chiaramente, ma è anche meglio la rete di relazioni che noi andiamo a gestire con gli altri. E quindi nel momento in cui noi ci stiamo prendendo cura di sé, non stiamo facendo delle scelte egoistiche, stiamo lavorando sulla nostra vita, ma questo lavorio sulla nostra vita comprende anche le relazioni esterne, comprende il fatto che noi siamo in sempre e comunque messi in relazione con qualcun altro. E quindi il senso greco, la comprensione greca della cura di se stessi era la capacità effettivamente di avere il rapporto migliore con se stessi possibile, perché questo rapporto migliore con se stessi possibile avrebbe giovato alla società. Sbaglio se trovo un'associazione con il discorso che fa tra pubblico e privato a Anare quando parla dei greci. Guarda, non sono abbastanza consapevole del lavoro di Hannah Arendt per darti una risposta su questo. Mi spiace. Quello che posso dire effettivamente in più però su questo punto è uno degli snodi fondamentali del pensiero platonico, che è quello appunto del governo di sé, perché tra le pratiche della cura di sé chiaramente rientra anche il governo di sé, che è la famosissima descrizione del tiranno presente all'interno della Repubblica di Platone. Il tiranno è una figura specifica che Platone descrive con un'analisi, si direbbe oggi psicologica, molto, molto particolare, molto raffinata, è anche molto, molto bella da leggere. È l'uomo totalmente schiavo delle sue passioni. È l'uomo totalmente schiavo delle sue passioni e che riflette questa schiavitù riguardo le sue passioni sugli altri. Il tiranno è chiaramente un caso di una persona che non è in grado di esercitare il governo di sé. Cioè il tiranno è proprio l'antitesi della persona in grado di prendersi cura di se stesso. È la persona totalmente in balia di se stesso, ma la persona che non è in grado di avere un rapporto con se stesso. E poi nella famosissima analisi platonica la Repubblica è giocata in continuazione con dei bei salti teorici, con dei bei buchi teorici tra individuo e tra privato e pubblico, come dicevi tu, tra individuo e collettività. Come fa il tiranno che non è in grado di prendersi cura di se stesso a prendersi cura della collettività? Come fa chi non è in grado di governare le proprie passioni a governare gli altri? Questo è uno dei punti nodali anche della riflessione politica, forse, contemporanea, non so quanto ancora sia rimasto. Benissimo. Andando avanti, esaurirei allora la parte dedicata nel testo all'ermeneutica del soggetto alla cura di sé per andare verso il libro che parla nello specifico della cura di sé dal titolo omonimo. Un passaggio intermedio, quello sull'uso dei piaceri. Chi leggesse l'introduzione può trovare per capire lo sviluppo del pensiero foucaultiano, un passaggio che è piuttosto interessante è quello in cui articola, siamo nel 1984, ormai quella che dovrebbe essere la sua composizione definitiva dei libri di cui parlavamo all'inizio, cioè La volontà di sapere, 76, L'uso dei piaceri, 84, La cura di sé, 84. Qua nell'introduzione a questo testo annuncia quel famoso quarto libro che poi non ha scritto o presumibilmente non è stato pubblicato, che è Les aveux de la chair, Le confessioni della carne, che sparpaglia tantissimo nei corsi, sparpaglia tantissimo nelle interviste e negli articoli, ma che non trovano una struttura unitaria. Questo dopo L'uso dei piaceri, dedicato appunto a tutti gli aspetti dei piaceri, La cura di sé, che si soffermava soprattutto sul mondo greco-romano, troviamo il mancato approdo al cristianesimo, che sarebbe dovuto essere, nell'operazione foucaultiana, uno dei passaggi chiave dello sviluppo di questa storia della sessualità. Le confessioni della carne noi non ce l'abbiamo, non ce l'avremo. Mi dicevi, Antonio, una volta che magari qualcuno... Vedremo se prima o poi verrà pubblicato. Peraltro... C'è un apparato di testi assolutamente eterogenei. Comunque è un qualcosa che ritorna spesso. Anche l'espressione confessioni della carne, cioè Foucault ne parlava come se questo testo praticamente l'avesse scritto, però non c'è. E voglio andare invece a vedere La cura di sé di nuovo all'interno del testo dell'84. Foucault ha bisogno ancora di precisare la questione dell'individualismo. A proposito di questo individualismo così spesso invocato in epoche diverse per spiegare i fenomeni più disparati, è opportuno prendere in esame una questione generale. Molto spesso si fanno entrare in quella categoria realtà del tutto diverse. Conviene invece distinguere tre cose: l'atteggiamento individualistico, caratterizzato dal valore assoluto che si attribuisce all'individuo nella sua specificità e dal grado di indipendenza che gli è riconosciuto in rapporto al gruppo a cui appartiene o alle istituzioni di cui dipende. Cioè, la cura di sé non è questa direzione, non è lo staccarsi dalla società, non è la valorizzazione della vita privata. È l'intensità dei rapporti con sé, delle forme nelle quali si è chiamati ad assumere se stessi come oggetto di conoscenza e campo d'azione, allo scopo di trasformarsi, correggersi, purificarsi, edificare la propria salvezza. Ecco che qui ritorna di nuovo il discorso dell'intensità. Cioè, quando vi apre tutto il tema della cura di sé in questo nuovo libro, ritorna ancora a questo punto. Leggo adesso, sempre all'interno di questa parte dedicata alla cura di sé, cinque punti in cui Foucault va a fare una specie di tassonomia della cura di sé. Primo punto: l'epimeleia e autù, la cura sui, è un'ingiunzione che ritroviamo in molte dottrine filosofiche. Primo, è un precetto, è un motto che appartiene alla filosofia greca, prima di tutto. A tante dottrine filosofiche greche. Prenditi cura di te stesso. Lo ritroviamo in Platone, lo ritroviamo negli stoici, lo ritroviamo negli epicurei, senza problemi. Secondo punto. Questa applicazione nei confronti di se stessi non vi chiede semplicemente un atteggiamento generale, un'attenzione diffusa. Il termine di epimeleia non designa una semplice preoccupazione, cioè non è un pensiero, non è un rovello, ma un insieme di occupazioni, cioè di attività. Si parla di epimeleia per indicare l'attività del padrone di casa, il ministero del principe nei confronti dei sudditi, le cure da prestare a un malato inferito, le onoranze da tributare agli dei o defunti. E anche nei confronti di se stessi, epimeleia implica un preciso lavoro. Quindi la seconda dimensione della cura di sé, come occupazione, come pratica nel senso di lavoro. Questo lavoro non è un esercizio, come dice Foucault, della solitudine, ma una vera e propria pratica sociale. Gli esempi di prima parlano infatti di pratica sociale. Terzo punto. In base a una tradizione che risale ai primissimi esordi della cultura greca, la cura di sé è in stretta correlazione con il pensiero e la pratica medica. La pratica medica è da intendersi in una maniera molto vasta. È la pratica con cui ci si prende cura del corpo, non è la pratica di medicalizzazione in senso stretto come noi la pensiamo adesso, non è il prendersi cura del corpo malato, ok? È il prendersi cura da se stessi in una maniera opposta, in maniera da preservarsi dalla malattia. Cioè il paradigma greco della, chiamiamola pure medicina, è un paradigma più vasto di quello contemporaneo, comprende una determinata gestione della sessualità, una determinata gestione dell'alimentazione, una determinata gestione del proprio corpo in senso stretto. È questo il prendersi cura di sé, cioè il cercare di vivere in maniera di non arrivare allo stadio della malattia. Quarto punto. La cura di sé è un insieme di, la parola chiaramente è foucaultiana, processi sperimentali. Cioè è un insieme di processi, sì, di pratiche con cui ci si va a testare, con cui ci si va a mettere alla prova. Qual è quella che, per chi avesse una preparazione, una formazione in senso foucaultiano, cioè anche come pratica cattolica, quella tra l'elenco che segue che mi massa di più mi sembra l'esame di coscienza. L'esame di coscienza serale come bilancio rispetto alle attività fatte nella giornata e che era una delle modalità più concrete in assoluto della cura di sé. Quella che gli stoici, se non mi sbaglio, chiamavano premeditatio malorum, una delle pratiche forse più forti dell'ambito stoico, la premeditazione dei mali, cioè prefigurarsi nella riflessione gli scenari peggiori possibili della propria esistenza per essere allenati al sostenerli nel momento in cui si fossero presentati. Quindi essere consapevoli fondamentalmente della presenza del male, del dolore nel mondo e pensare, malorum, proprio dei mali, pensare se stessi nelle situazioni afflitte dai mali per riuscire, d'altronde sono stoici, a lavorarli, ad assorbirli, a non esserne trascinati nel momento in cui si fossero presentati. Un'altra pratica di cui parla Foucault in maniera sparsa, su cui dedica tanto, la pratica degli hypomnemata. Gli hypomnemata erano quaderni, taccuini di appunti, taccuini di appunti, non produzioni autonome del soggetto, in cui la persona andava a segnare tutto quel mondo disparato di sentenze, di idee, di voci, di frasi, di... che lo circondavano. E gli hypomnemata avevano, chiaramente, come dice la radice greca del termine mnemata, la funzione di ricordare, di tenere sotto mano quello che era interessante per la propria vita, ma allo stesso tempo erano una sorta di economia disparata della propria esistenza, disparata perché non avevano nessun progetto, si direbbe oggi editoriale, strutturale, in nessuna maniera, erano raccolte di quello che c'era intorno. Ma perché erano importanti? Perché era quello che c'era intorno, era quello che noi ritenevamo interessante per la nostra vita. E l'ipomnemata è una delle pratiche di cui si parla. Il lavoro del pensiero su se stesso, la pratica della riflessione come pratica costante e fondamentale. Cioè, detto in un linguaggio contemporaneo, il riuscire a essere critici rispetto a se stessi. E quinto punto, l'obiettivo comune a queste pratiche di sé, pur attraverso le differenze che presentano, perché effettivamente tutte queste messe che si trova in questi libri di pratiche del sé sono effettivamente tantissimi elementi differenti, può essere caratterizzato dal principio del tutto generale del ritorno a se stessi, della epistrofe eis auton. La formula è di stampo platonico, ma abbraccia per lo più significati sensibilmente diversi. Occorre intenderla, innanzitutto, come una modificazione di attività. Non che si debba cessare qualsiasi altra forma di occupazione per consacrarsi interamente ed esclusivamente a se stessi, ma è opportuno tenere presente, nelle varie attività che bisogna pur svolgere, che lo scopo principale da perseguire è da ricercarsi in se stessi nel rapporto con sé, fondamentalmente nel non dimenticarsi di se stessi, cioè nel non finire in quella condizione totale di distrazione di se stessi che, come vedremo la prossima volta e dirà nei prossimi passaggi, impedisce ogni pratica, qualsiasi possibilità di pratica di libertà. Praticamente, detto in altri termini, è l'impossibilità totale di risoggettivarsi, cioè è lasciarsi andare a dei processi avviati e l'essere travolti dal comune e dal conosciuto che ci rende totalmente trasparente quello che noi siamo. A questo punto ho tempo, scusatemi, sì, perfetto, ho tempo per introdurre un'intervista molto importante, l'etica della cura di sé come pratica della libertà, semplicemente introducendo il titolo oggi perché vorrei affrontarla maggiormente la prossima volta, che è presente nella dispensa per chi volesse leggerlo. Vorrei analizzare le prime tre parole, l'etica della cura di sé. La cura di sé, abbiamo visto di che cosa stiamo parlando. Perché? Vi ritorniamo a questa parola etica, di che cosa stiamo parlando precisamente. Cos'è quest'etica che è anche un'estetica di cui sta parlando Foucault in questo momento? All'interno sempre di questo libro, Foucault Oggi, c'è un saggio di Remo Bodei che va abbastanza a fondo in questa direzione. Bodei interpreta questa etica della cura di sé come un richiamo, dice Bodei, eto-poietico, cioè come un invito poietico alla costruzione di un ethos. E qual è questo ethos? Come lo vendiamo in italiano? Le parole che usa Bodei mi sono piaciute molto, le vende come terreno della vita. Cioè il terreno è quello che noi calpestiamo, è quello che noi viviamo quando viviamo. L'etica della cura di sé, quindi, al di là di ogni deriva dell'interpretazione di un titolo, si configura come il prendersi cura di se stessi in quanto costruzione politica del terreno della nostra vita. Per cui il processo non è cercare un trascendente fuori di noi, un trascendente oltre, ultraterreno o un trascendente terreno. Anzi, lo sfondo generale è quello di lavorare su noi stessi, perché lavorare su noi stessi è costruire il terreno che abbiamo intorno a noi stessi. In questo senso, sempre dal saggio di Bodei, se non mi sbaglio, qua andiamo nella direzione che ci permette di sfuggire da quello che Bodei, scusatemi, sto citando a memoria, forse sbaglio, chiama il discorso del padrone. Il discorso del padrone è il discorso cartesiano, è il discorso che ci dice la verità è là e vai a cercarla, riduciti e vai a cercarla. Perché? Perché questo ci fa incanalare all'interno del regime dei dispositivi, e questo è il punto fondamentale che poi vedremo di più la volta prossima. Qua invece il processo è un processo opposto. Prenditi cura di te per costruire da te stesso, o meglio, rivolgiti a te stesso per costruire da te stesso quello che hai intorno. E quindi non c'è nessun orizzonte da aggrappare, c'è un andare, un trovare un rapporto con sé per costruire quello che abbiamo intorno. Qua taglio un po' di cose. E arrivo a citare un ultimo passaggio da Rovatti, sempre, per chiudere un po' il discorso odierno ed aprire il discorso che si farà la prossima settimana. La libertà della cura di sé. Libertà è un termine ignorato volutamente oggi, che Foucault preleva dall'antichità per rilanciarla nel nostro presente, è invece un esercizio critico che si mette di traverso rispetto alla rinascita del soggetto nella nozione contemporanea di individuo e alle pratiche stesse di soggettivazione che lo contraddistinguono. Il soggetto individuo che nasce dal panopticon è il trionfo psicopolitico della visibilità. Esiste in quanto visibile, identificabile, localizzabile, scrutabile fin nelle pieghe della sua cosiddetta anima, poiché così esso è percepibile in ogni momento e in ogni luogo dal dispositivo di potere, il quale a propria volta funziona e si legittima attraverso la sua visibilizzazione e dunque attraverso i gesti che esso compie per affermarsi ogni volta come una specifica e diversa individualità. E qua è la gabbia di cui si parlava, è la prigione di cui parlava Deleuze. Mentre noi crediamo di segnare, attraverso la singolarità delle nostre esperienze interne ed esterne, un territorio individuale sempre più disponibile e libero, in realtà ci chiudiamo ogni giorno di più nella prigione della nostra soggettività individuale, di vita, di lavoro, di relazioni, ma anche di bisogni e di desideri. E ci rendiamo non solo docili verso il potere, non solo complici di esso, ma letteralmente agenti di questo stesso potere e dominio. Ecco la lezione alquanto drammatica che Foucault ci trasmette con occhi straordinariamente lucidi. La contromossa che tutti cerchiamo, non senza qualche ansietà, nelle sue pagine pur così chiare, dato che non ci accontentiamo del passaggio dalle teorie alle pratiche, che pure è già un acquisto preziosissimo, non sarà un atto di collaborazione con questo individuo in piena luce, ma al contrario, un atto di decostruzione che ci sposti in una zona, semmai, di anonimato e che ci sottragga almeno un poco dal cono di luminosità. Una contromanovra alla quale Foucault ha evidentemente ispirato, per quanto potuto, la sua stessa esistenza personale. Questa contromanovra, questa uscita dal cono di luminosità, questa desoggettivazione radicale che tormenterà Foucault negli ultimi 2 anni, è quello che andremo a vedere la prossima volta. Dall'ermeneutica del soggetto al coraggio della verità, cioè l'ultimo ciclo di lezioni foucaultiane, passano 2 anni abbastanza intensi e tormentati. Foucault troverà sulla propria strada una nuova disciplina, una nuova scuola filosofica greca, i cinici, che lo porterà ad avere un approccio verso la cura di sé, verso l'esistenza, ancora più radicale rispetto a quelli sottolineati oggi. La prossima volta si cercherà di andare a vedere allora quelle 2 parole che oggi sono rimaste del tutto in evase, che erano libertà e verità, come entrano in gioco con questo processo di desoggettivazione radicale di cui parla Rovatti e verso cui la cura di sé ha portato. In che senso ha portato? Ed è quello che vorrei che rimanesse di oggi. Come paradigma, come modalità di esistenza, come arte dell'esistenza ignorata, che ha fatto sì che prevalesse un tipo di discorso che ha portato a un determinato maniera di essere noi stessi all'interno di un sistema politico, questo panopticon letto in maniera così radicale da Rovatti. Ci si può stare all'interno, l'ipotesi che propone Foucault negli ultimi anni invece è quella di uscirne. Vedremo la prossima volta quali sono, oltre alla cura di sé, le maniere di uscirne. Grazie a voi. Quando no, ma è un casino, c'è tantissima roba.